Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brucellando, maridia ai microfoni di questa serata speciale. Ebbene sì, penserete, oggi è venerdì, non è martedì, è il 1º maggio, sì, è vero, è il 1º maggio, ma ci sono eventi che vanno celebrati, ricordati, promossi, sponsorizzati, incoraggiati, perché l'evento di cui parleremo questa sera è un evento che si ripete puntualmente, certamente, in più città europee e non solo, è già accaduto in passato. Parliamo dell'Esposizione Universale di Milano che ha aperto proprio oggi i suoi battenti. Brucellando ha avuto la possibilità di raccogliere due interviste a due dei protagonisti di questo evento. Il consigliere Francesco Forte, che coordina per la nostra rappresentanza permanente presso l'Unione Europea le attività dell'Expo qui a Bruxelles, ed Antonio Cennini, che invece coordina per il Joint Research Center, per il centro di ricerca comune della Commissione Europea, le attività dell'Expo. Entrambi impegnatissimi, veramente li ringrazio doppiamente ancora e nuovamente. Per aver concesso qualche minuto del loro tempo preziosissimo agli ascoltatori di Radio Alma e di Brucellando. Non mi dilungo oltre perché le interviste sono veramente ricche di dettagli, di particolari, di eventi che mi auguro tutti coloro i quali sono all'ascolto potranno assistere, partecipare, usufruire insomma di questa ricchezza di temi, perché l'Expo è anche un momento di riflessione, un momento in cui interrogarci sulle sorti del nostro pianeta. E dunque, già che ci avviciniamo, andiamo verso anche quella che è la festa dell'Europa, il prossimo 9 maggio, sapete, Brucellando dedica ampio spazio anche a queste tematiche. Vi lasciamo con queste due bellissime interviste, la prima con il consigliere Francesco Forte e poi restate con noi perché ci sarà la seconda. Allora, prima di passare all'intervista, un brevissimo momento musicale che Daniele ci suggerisce dalla regia, è così per entrare nelle atmosfere di questa Expo, Andrea Bocelli, La forza del sorriso, che è anche la canzone con la quale si riconosce Expo Milano 2015. Restate con noi, Radio Alma, Brucellando, Maridì. Cari amiche, cari amici, eccoci qui, quindi come ricordavamo in apertura, in occasione di questo Brucellando Special dedicato all'Esposizione Universale di Milano. Ne parliamo con Francesco Forte, consigliere presso la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione Europea, il quale coordina proprio da Bruxelles le attività inerenti l'Expo, come si dice qui a Bruxelles. Consigliere, benvenuto a Radio Alma, Brucellando. Grazie, grazie dell'invito, grazie per questa bella opportunità anche di poter contribuire alla diffusione delle informazioni su Expo, che è un evento, Expo lo diciamo noi in Italia, Expo lo diciamo qui a Bruxelles, questo evento che ci rende particolarmente contenti e orgogliosi, perché stiamo organizzando davvero un evento memorabile. E noi ce lo auguriamo, infatti, ecco, la curiosità, insomma, che verrà soddisfatta. Allora, consigliere, io, come lei può immaginare, sono spesso sollecitata dai nostri ascoltatori, spesso ricevo email, oppure semplicemente in incontri vari e diversi mi capita di parlare di quelle che sono le mie aspettative circa il programma. E tra le aspettative, ovviamente, c'era anche l'Expo. Allora, io vorrei che lei ci spiegasse proprio che cos'è questa esposizione universale. Perché credo che forse non tutti gli ascoltatori, perché tra i nostri ascoltatori c'è anche una fetta di ascoltatori non italiani, magari sanno di che cosa stiamo parlando. Quindi io comincerei proprio con le origini. Che cos'è questa esposizione universale? Certo, e poi la domanda è particolarmente pertinente ed è in linea anche con lo spirito di Expo che voleva che la gente si domandasse perché il motivo, che cos'è questa esposizione, che risale a tanto tempo fa, la prima non ufficiale, diciamo, perché ancora non esisteva il Bureau International des Expositions, è di Londra, addirittura nel 1851. È un evento che figlio, diciamo, nasce nel contesto della seconda rivoluzione industriale, quindi è una celebrazione del progresso, dello sviluppo dei paesi all'epoca, dei paesi europei, ma che già quelli mondiali che si venivano, per mettere in mostra, ecco, perché è esposizione, per esporre i propri traguardi, le proprie invenzioni, le proprie i propri brevetti. Vi faccio un esempio: il telefono fu presentato in una Expo, la macchina da scrivere, l'ascensore. Poi ricordiamo l'Expo di Parigi, particolarmente famosa perché ha presentato la Torre Eiffel, stata costruita proprio per l'Expo di Parigi. Quindi sono degli eventi in cui si celebra davvero il progresso dell'umanità, e quindi per questo è particolarmente bello. Sono eventi in cui tutta la comunità internazionale si ritrova, diciamo. Quindi mi sembra di capire che questa esposizione universale sia itinerante, quindi che avvenga magari in capitali diverse. Quindi come mai Milano? C'è una scelta, c'è una manifestazione? La procedura è fatta adesso dopo nel 1928 in realtà fu creato questo ufficio internazionale per le esposizioni, perché il successo di questo evento aveva generato una moltitudine di esposizioni più o meno autorizzate. Allora, per riportare un po' ordine alle cose, gli stati si sono messi d'accordo, hanno creato una procedura, c'è una fase in cui ci sono i candidati, si sceglie il candidato. Devo dire che la lungimiranza, la costanza, la tenacia dell'amministrazione italiana hanno portato l'Expo nuovamente in Italia dopo quello di Genova nel 1990. E perché Milano? È una domanda anche questa pertinente. Intanto Milano è un po' il simbolo della crescita del paese, di tutta l'Italia. Solo Milano, conta 10 milioni di abitanti. Tutta l'area, come Londra o Parigi, e produce circa il 10% dell'intero PIL italiano, solo Milano, con naturalmente un reddito pro capite altissimo. E per quanto riguarda l'innovazione, il progresso, solo a Milano, solo in quest'area, il 40% dei brevetti di innovazione, e l'intera produzione annuale di Boston, per darci un'idea. Oltre a essere la capitale italiana del volontariato, del terzo settore, insomma un'area metropolitana grandissima che può quindi offrire già di per sé un terreno più che fecondo a un'esposizione, perché è chiaro che l'esposizione va fatta in un posto che sia, come dire, fecondo, quindi possa dare anche soddisfazione a questi espositori, diciamo così, quindi in un contesto che sia adatto a questi eventi particolarmente grandi. E quindi insomma solo nella città regione di Milano ci sono, come vi ho detto, 9 milioni, 10 milioni di abitanti, quindi insomma assicureremo sicuramente una visibilità, un successo locale. In più bisogna dire l'enorme attenzione che l'evento sta suscitando a livello internazionale. Il Presidente del Consiglio da poco è tornato sull'ottima performance per quanto riguarda i biglietti venduti, siamo già a 10 milioni di biglietti, insomma veramente un risultato lusinghiero, e ancora l'esposizione deve aprire le porte, le apre l'1 maggio, quindi diciamo come scelta è stata molto, molto azzeccata. Beh, il 1 maggio in effetti alle porte, quindi insomma incrociamo veramente le dita. Allora, mi sembra di capire però che a seconda della città e magari anche del momento storico, magari ci sono obiettivi diversi. Quindi in questo caso, quali sono gli obiettivi che si prefigge questa esposizione? Più che obiettivi, io parlerei dei temi. Uh-huh. Sono scelti dei temi attorno a cui ruotano le esposizioni universali. Il tema di Milano è, diciamo, generale, e la nutrizione, il suo tema, ecco, proprio il titolo è Nutrire il pianeta, energia per la vita, che è stato anche ed è uno dei successi dell'esposizione universale in Italia, aver scelto questo tema così attuale, così importante, che non è solo occasione, come dire, di vetrina, di celebrare il progresso scientifico, ma è anche un'occasione di dibattito all'interno della più vasta comunità internazionale su dei temi importantissimi. Infatti il tema dell'innovazione nel settore dell'alimentazione, il diritto al cibo, il diritto a un'alimentazione sana, sicura, sufficiente in tutto il pianeta, lo sviluppo sostenibile, cioè senza lasciare un'impronta sul pianeta che sia devastante, cioè senza consumare più di quanto il pianeta non possa poi rigenerare, perché altrimenti distruggiamo il capitale più che, se vuole, i profitti che questo genera. Tutti questi temi, in un momento in cui la popolazione mondiale si sta espandendo, si parla di 9 miliardi di abitanti entro il 2050, pensi, con un innalzamento del livello di reddito, quindi un innalzamento anche delle diete, con una propensione maggiore verso il consumo di carne, eccetera. Insomma, tutte queste cose pongono dei grossi interrogativi, ma ce la facciamo? Ci sarà terra a sufficienza? Ci sono le tecnologie idonee, adatte, aggiornate per produrre un volume di cibo tale per una massa di persone tali? Ecco, questo è il problema centrale, diciamo, dello sviluppo internazionale. Si chiama sviluppo sostenibile, diciamo, tutta la narrativa che lo riguarda. E Expo a Milano l'ha messo al centro di una manifestazione così importante. Quindi una lungimiranza, anche una sensibilità su questi temi, e l'intera comunità internazionale ci sta riconoscendo adesso, perché ne vede il valore aggiunto. Certo. Ritrovandosi e organizzando un'esposizione in cui tutti celebrano, sono eventi, manifestazioni, eventi culinari, eccetera, però tecnologia naturalmente, architettura, eccetera, però si dibatte di temi molto importanti, molto seri, direi vitali per il futuro dell'umanità. Beh, sicuramente, quindi, quando prima parlavamo di obiettivi, probabilmente il senso profondo in ogni caso della manifestazione è quello di aprire ad una riflessione, soprattutto magari una fetta di persone che non ha mai pensato che possano esserci determinati problemi, oppure che non si è mai interrogata né sulla sostenibilità ambientale né tantomeno magari sul perché non debba mangiare carne. Cioè, io so tanti amici anche qui per i quali sarebbe impossibile aprire un dibattito sulla possibilità, per esempio, di ridurre il consumo di carne e di uova, solo per fare un esempio proprio banalissimo. Sono tra i primissimi fattori, fonti di inquinamento, perché non lo sa, poca gente lo sa, più dei cementifici. Certo, poi c'è pure... È vero, i gas che emettono gli allevamenti animali inquinano in termini di CO2 tra le primissime fonti di inquinamento. Quindi abbiamo detto che cos'è l'Expo, abbiamo parlato dei temi, obiettivi che l'esposizione intende portare avanti, abbiamo parlato di Milano. Allora a questo punto io vorrei chiederle qual è quindi il ruolo dell'Italia, perché noi siamo a Bruxelles, lei è di stanza anche a Bruxelles per il nostro Ministero degli Esteri, quindi coordinate anche delle attività da Bruxelles per poi convogliarle su Milano. Quindi ci potrebbe spiegare come funziona a livello istituzionale il funzionamento dell'esposizione stessa? Intanto, per norma, la regola è l'ufficio internazionale delle esposizioni richiede che il paese ospite crei una SPA, la famosa Expo SPA, cioè un'operazione in cui partecipano in realtà l'amministrazione centrale e le amministrazioni locali interessate. Nel caso dell'Italia c'è anche la Camera del Commercio. Proprio per dare un senso di autonomia anche gestionale all'evento. Quindi questa è la prima forma, quindi è Expo SPA che poi coordina le attività di Expo. Naturalmente poi qual è il ruolo dell'Italia? Il ruolo dell'Italia è molto più ampio, il ruolo del governo, il ruolo del settore privato, il ruolo della società civile, e poi il ruolo del pivot in tutto questo. Cioè, abbiamo scelto un tema difficilissimo, complicatissimo, perché riguarda tantissime dimensioni, tantissimi aspetti della vita della comunità internazionale. Quindi elaboriamo facciamo una serie di attività e di eventi, ma soprattutto cerchiamo di guardare oltre per creare quella che viene definita una legacy immateriale, cioè un'eredità di Expo. E il ruolo dell'Italia sta proprio in questo, cioè cercare di far venire a maturazione o trovare il valore aggiunto di questo esercizio con un tema così complesso. Diciamo che questo viene racchiuso, e peraltro la coincidenza è particolarmente felice perché oggi a Milano viene presentata la cosiddetta Carta di Milano, documento programmatico, non vincolante, ma programmatico, in cui chi lo sottoscrive, governi, amministrazioni, imprese, società civile, diciamo si obbliga, si impegna a seguire dei comportamenti o a perseguire dei valori e dei principi che convergono verso la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile. Quindi è questo il ruolo, diciamo, più che gli aspetti logistici, operativi, che sono molto difficili, abbiamo visto quali miracoli sono stati compiuti e si stanno compiendo ancora sul sito Expo, ma oltre a predisporre tutto e quindi essere l'ospite, diciamo, nel senso coloro che ospiteranno questo evento nel modo migliore, e anche coloro che cercano di trasmettere al futuro, al post-Expo, un messaggio che abbia senso, un messaggio che possa rimanere. E la Carta di Milano, invito tutti i vostri ascoltatori a, se hanno tempo e voglia, a verificare su internet, a individuare, a trovare su internet la documentazione e tutte le informazioni, è molto interessante da questo. Quindi in realtà poi ci sono anche degli obiettivi tangibili, quindi c'è questo grosso evento che sicuramente sta attirando l'attenzione mediatica da tutti i continenti. Ci si aspetta un flusso di 20 milioni di presenze, di cui 10 milioni di biglietti, insomma, già sono stati venduti. Quindi c'è qualcosa di concreto, non c'è soltanto una parte, se vogliamo, di conoscenza, quindi far conoscere i paesi, parlare di temi ambientali, ma insomma c'è di più. È davvero un obiettivo ambizioso. La Carta di Milano verrà consegnata al segretario generale delle Nazioni Unite quando lo stesso sarò in visita a ottobre a Expo, e vuole essere un po' un lascito, ripeto, immateriale, uno statement con grande forza, collettivo, non solo governativo, tra governi, ma tra governi, imprese, società civile, per un futuro, una futura politica globale dell'alimentazione che includa non solo il cibo, come vi ho detto prima, ma proprio il benessere in generale. Noi in Italia la nostra cultura culinaria è intrisa del concetto di benessere, cioè non è che noi mangiamo bene solo perché siamo dei goderecci, ma stiamo bene, ci vogliamo sentire bene, non usiamo non menziono nulla perché non voglio essere poi fare, noi facciamo vedere, ma non soffriggiamo con un occhio piuttosto che un altro, non solo perché quello ce l'abbiamo sopra, ma perché fa bene. Certo. È proprio intrisa dentro di noi questa cultura. E quindi è naturale che cerchiamo di trasmettere questo valore aggiunto, inserendo questo messaggio anche nella salute umana e nella salute del pianeta. Il pianeta deve stare bene insieme a noi. Assolutamente, consigliere. Siamo d'accordo con lei, anche perché, come abbiamo detto, siamo in un mondo sempre più globale e interdipendente, quindi se andiamo verso un mondo di 9 miliardi di persone, in qualche modo dovremo anche assicurare comunque una coesistenza pacifica, diciamola così, perché poi insomma le risorse sono una delle cose più importanti su cui in passato insomma è stato fatto più di un errore pur di averle, quindi magari questa... questa carta potrà almeno cercare di raccogliere intenti che vadano verso soluzioni positive. Ma allora veniamo al dunque dell'esposizione, perché abbiamo parlato ora un po' degli attori istituzionali, del processo che riguarderà la manifestazione. Ma allora, se io domani volessi andare all'Expo di Milano, che cosa potrò visitare? Quali sono le possibilità? Allora, intanto sia per lei che per me, ci lavori, non è che non certo conoscere il sito fin quando non ci sono stato, e per tutti gli ascoltatori interessati, il sito di Expo, che Expo ha elaborato, cioè è www.expo2015.org, è strepitoso. uso. Io lo utilizzo per lavorare, per attingere la documentazione, per interloquire con i nostri, con le varie realtà con cui lavoriamo. È davvero uno strumento divulgativo, informativo e operativo, fantastico, in diverse lingue, italiano, inglese e francese. Ci sono delle presentazioni, vi sono delle presentazioni tridimensionali del sito, i vari padiglioni, ma in nuce, ecco, per quel poco che posso dire, ma davvero visitare la pagina web è utilissimo, è un sito grandissimo, costruito attorno al cosiddetto cardo e al decumano, per utilizzare i termini latini, sono le strade principali che un tempo segnavano le città, sono perpendicolari tra loro, con tutta una serie di padiglioni. I padiglioni sono strutture in cui ogni stato, ogni paese partecipante organizza la propria esposizione, sono quindi delle piccole esposizioni nazionali e all'interno tutte insieme fanno l'esposizione di Bazzani. Quindi insomma, ne abbiamo sentito parlare praticamente quasi tutti i giorni alla televisione italiana recentemente, si parla di padiglione, si parla quindi per esempio del padiglione Italia, del padiglione Europa, quindi possiamo aggiungere qualcosa oppure restiamo ancora un po' vaghi e magari ci ritroveremo tra qualche settimana per parlare più. Tanto non possiamo aggiungere perché lasciamo che poi la sorpresa. Certo, assolutamente, sono d'accordo con lei. Allora veniamo un attimo. Maggio, ci saranno oltre 140 paesi che partecipano. Esatto, questa quindi era la domanda. Chi è che partecipa? Chi sono i partecipanti di questi padiglioni? Da chi sono organizzati i padiglioni che si potranno visitare durante l'esposizione? Beh, tutti i padiglioni si possono visitare, sul sito c'è la lista di tutti i paesi partecipanti, ma dagli Stati Uniti al Canada, alla Cina, ma vedete, è inutile che faccio la lista, sono 140 euro. Certo, sì. Ma soprattutto ci sono le organizzazioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite e l'Unione Europea, che a noi fa particolarmente piacere, ecco perché la rappresentanza, la rappresentanza italiana è particolarmente impegnata in un'attività promozionale di raccordo con le istituzioni europee, perché per la prima volta l'Unione Europea presenta l'Expo con un proprio padiglione, non è una cosa scontata, e così anche le Nazioni Unite che hanno una partecipazione cosiddetta orizzontale in tantissimi eventi. Gli eventi non si contano perché l'agenda è veramente ciclopica. Assolutamente, poi insomma, magari vogliamo ricordare ai nostri amici all'ascolto le date entro cui si svolgerà la manifestazione. Ma certo, dunque, il 1 maggio vi è l'inaugurazione istituzionale, dall'1 maggio sarà aperta fino al 31 ottobre per norma internazionale del bureau delle esposizioni, dura 6 mesi. Quindi fino al prossimo 31. Quindi fino al 31 ottobre. Avremo 6 mesi di tempo per visitarlo, saranno spettacoli, incontri, convegni, manifestazioni all'interno dei siti, all'esterno, ci sono le aree per i bambini, ci sono delle aree tematiche, su questo mi volevo un attimo soffermare perché sono i clusters, vengono definiti, cioè sono dei padiglioni non degli stati, non di un singolo stato, ma sono padiglioni tematici in cui anche i piccoli stati, quelli che di solito non partecipano perché è costoso partecipare, certo, hanno la possibilità questa volta di partecipare. Anche qui la lungimiranza della nostra, perché essendo nutrizione, essendo sviluppo, che poi restassero fuori da questo esercizio paesi che invece ancora hanno bisogno del nostro aiuto per lo sviluppo economico e anche per problemi di nutrizione, di fabbisogno alimentare, eccetera, sarebbe stato un paradosso. Quindi siamo, inoltre è molto importante perché affrontiamo problemi come padiglioni tematici del caffè, per esempio, il problema dei prezzi, della qualità del caffè, di come incide sul reddito di questi paesi. Quindi, anche da questo punto di vista è molto interessante. Se mi consente, peraltro qui a Bruxelles proprio oggi abbiamo fatto un evento, abbiamo organizzato un evento proprio con i paesi ACP, Africa, Caraibi e Pacifico, per su Expo. Ne abbiamo organizzato un altro col Parlamento europeo, sempre sul problema della nutrizione, quindi diciamo c'è tantissima attenzione su questi temi, su questa collaborazione internazionale, che è un tema importante per tutti, sia per chi dona sia per chi riceve. Per carità. Assolutamente, quindi allora semmai consigliere, c'è qualcosa che non gli ho chiesto che vorrebbe aggiungere, oppure un messaggio per i nostri amici all'ascolto? Trovate l'occasione per andare a visitare Expo, perché ne varrà la pena. Il sito, peraltro, dà tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti. Esatto, questo sì. Questo è un esercizio privato, no? Con certo. Una SPA, quindi deve rientrare nei costi, è tutto un esercizio abbastanza complesso, quindi non mi soffermo. Però ci sono tantissime formule. Ecco, forse un suggerimento: fatto 30, fate 31, non fate una visita di un giorno, ma fate 2 giorni, perché alla fine in un giorno, in un sito tanto grande, sì, praticamente grandissimo e ricchissimo, alla fine pur di vedere il maggior numero di cose, uno non si sofferma a godersi l'evento piuttosto che ce ne sono tanti. Informatevi sul sito, vedete quali sono gli eventi, quali sono i periodi che più vi piacciono, ci sono dei programmi settimanali, la Commissione europea per esempio ha dei programmi settimanali, qui in Europa potrebbe essere, qui a Bruxelles potrebbe essere di interesse, quindi ecco, informatevi prima perché è molto facile, e poi con dei biglietti modulati, ce ne sono per la fine settimana, anche, cioè 2 o 3 giorni uniti, con delle offerte speciali, ma ripeto, io non lavoro per Expo, quindi assolutamente no. È un po' lungo, però il mio suggerimento è questo. Andare, e allora tanto vale, siamo a 2 o 3 giorni e godiamoci questa celebrazione davvero del progresso, ma anche della sensibilità e dell'attenzione della comunità internazionale ormai verso questi temi. Tra l'altro, magari lo ricordiamo velocemente, poi durante il prosieguo della puntata lo ricorderò anch'io, il biglietto si può acquistare online, quindi insomma gli ascoltatori potranno scegliere veramente comodamente da casa quali sono le attività che vorranno. Assolutamente, quindi chiariamo anche questo aspetto. La rappresentanza questa sera promuove l'evento e questo è il suo ruolo istituzionale, quindi vi ringraziamo. Allora, consigliere, noi siamo ormai verso la fine. Non so se magari vogliamo ancora aggiungere qualcosa, oppure altrimenti la ringrazio per la sua squisita disponibilità. Tra l'altro immagino che, essendo quasi pronti per l'inaugurazione, questi siano giorni effettivamente insomma hectics, come si dice da questa parte, quindi davvero da questo... concitati, grazie per la parola. Sì, davvero, però sono io che ringrazio voi di questa opportunità, perché poi peraltro è particolarmente piacevole parlare con la redazione di Bruxellando, quindi insomma, raggiungere la comunità italiana questo è l'obiettivo principale per cui si fa il lavoro che faccio. Allora, consigliere, io le strappo una promessa, vediamo se ci riesco, almeno ci provo. Ne riparliamo magari a novembre a disposizione chiusa, magari facciamo una riflessione su quelli che sono stati i risultati. Quello che si dice il conto consuntivo. Il conto consuntivo, come preferisce chiamarlo, per me è uguale, l'importante è che poi... Un bilancio dell'evento, magari la prossima volta sarà proprio nei nostri studi, così potrà anche ammirare la nostra piccola radio. Va bene, con molto piacere. Va bene, allora consigliere, la ringraziamo, le auguriamo tanto veramente tutto il meglio, tanto buon lavoro e allora a prestissimo. Grazie, grazie ancora a voi della radio, un saluto a tutti gli ascoltatori. A presto, buonasera. Cari amiche, cari amici. Ecco, prosegue questo viaggio di Bruxellando alla scoperta dell'Expo Milano. Sono felice perché la possibilità di poter intervistare 2 ospiti di alto calibro proprio alla vigilia dell'evento era insperato fino a qualche tempo fa e invece poi ce l'abbiamo fatta. Quindi sentirete ora dalla voce di Antonio Cennini, che è il responsabile, il coordinatore per l'Unione Europea, durante l'Expo di Milano, qual è il ruolo e quali sono le attività chiave dell'Expo Milano. Sentiamo che cosa ci ha raccontato qualche giorno fa in collegamento telefonico da Milano. L'Unione partecipa a questa esposizione universale con un programma molto ricco e ambizioso e con degli competitivi, anche altrettanto ambiziosi e, se vogliamo, innovativi rispetto alle precedenti partecipazioni a esposizioni universali, in quanto vogliamo, in parte anche per la natura, il tema centrale di Expo, che è appunto nutrire il pianeta, energia per la vita, è un tema che si presta quindi tantissimo a toccare diversi degli ambiti prioritari delle politiche europee, ma se vogliamo anche un po' per il fatto che questa Expo si svolge in Europa e quindi a Milano, dopo 15 anni dall'ultima esposizione, la Commissione europea ma anche il Parlamento europeo hanno deciso appunto di partecipare a questa esposizione con diversi obiettivi. Il primo obiettivo è sicuramente un obiettivo più tradizionale, cioè quello di comunicare ai cittadini, non solo europei ma dei paesi terzi, che cosa è l'Europa e quali sono nello specifico i valori aggiunti delle politiche europee relativamente agli ambiti legati al tema di Expo, quindi parliamo essenzialmente di alimentazione, di sviluppo sostenibile, di alimentazione sostenibile se vogliamo. E in secondo luogo l'Unione Europea ha come obiettivo, anche questo chiaramente è strettamente attinente al tema, un obiettivo di lasciare un'eredità che sia un'eredità permanente a questa esposizione, contribuendo appunto a elaborare delle proposte, delle soluzioni al grande tema dell'Expo, che quindi è quello di come garantire un'alimentazione che sia sostenibile, di qualità e sana per un numero di abitanti del pianeta che appunto nel 2050 si avvicinerà ai 9 miliardi, quindi una grande sfida dell'umanità alla quale l'Unione Europea vuole contribuire, soprattutto mettendo a disposizione il grande bagaglio di competenze tecnico-scientifiche. E poi c'è un terzo obiettivo che anche questo è abbastanza innovativo, cioè quello di aiutare le imprese europee durante l'Expo a crescere, quindi a avere opportunità di business, quindi c'è tutto un programma che sarà dedicato al B2B con una, appunto, una dimensione europea. Questi sono, diciamo, il ruolo che l'UE intende giocare da protagonista in questa esposizione di Milano. Immagino che quando parliamo di Unione Europea, sebbene tu rappresenti il Joint Research Center, ci sono attività coordinate anche con altre direzioni generali della Commissione europea. Puoi dirci qualcosa in merito? Sì, certamente. Allora, il Joint Research Center, che è appunto il centro comune di ricerca della Commissione, ha avuto nel 2013 il mandato dal Presidente Barroso, la nuova Presidente della Commissione, di coordinare la partecipazione della Commissione a questo due motivi sostanzialmente. Il primo, proprio per quello che ho detto precedentemente, cioè trattandosi di un Expo molto orientato ai contenuti, quindi con un tema che si presta molto a un dibattito anche di carattere scientifico, il più grande centro di ricerca europeo e comunque il centro di ricerca che tecnicamente fornisce a tutte le direzioni generali della Commissione le competenze tecniche e scientifiche necessarie appunto a elaborare le normative, a predisporre le politiche, chiaramente diventava una vocazione naturale quella del GRC, anche perché appunto è l'unica direzione generale con una competenza orizzontale che tocchi diversi ambiti appunto che rientrano nel tema di Expo, quindi se parliamo di ambiente, di clima, di cambiamenti climatici, di politiche agricole, di qualità dell'aria, eccetera, eccetera. E questo, diciamo, è il motivo principale per cui il GRC è stato chiamata a coordinare la partecipazione di tutte le direzioni generali all'Expo. In secondo luogo c'è anche una ragione di carattere geografica e logistica che tra i diversi centri di ricerca del GRC, quello di Ispra, quindi a 50 km da sede dell'Expo, è uno dei più grandi, appunto, e quindi di fatto costituisce un back office naturale per tutte le attività che già da diversi mesi in fase di preparazione, ma soprattutto nei prossimi 6 mesi durante l'Expo, dovranno assistere alla realizzazione dell'Expo. Quindi, diciamo, c'è due motivi, uno di carattere di vocazione naturale e uno di carattere anche logistico. Veniamo invece quindi proprio all'apporto dell'Unione Europea stessa a queste tematiche. Ci saranno, immagino, dei convegni, dei seminari, delle tavole rotonde. Ci puoi già magari annunciare qualcosa in merito oppure è ancora un po' presto per parlarne? No, certamente, diciamo, anche se chiaramente l'agenda degli eventi per tutto il semestre è ancora in qualche modo passibile di modifiche, però a grandi linee noi già possiamo orgogliosamente vantare un programma di oltre 200 eventi tra eventi di carattere appunto scientifico, dibattiti, workshop che si terranno sia dentro il sito appunto dell'Expo, in parte dentro il padiglione europeo, in parte anche in altri luoghi dell'Expo, ma anche fuori dall'Expo, quindi parliamo a Milano, presso sede universitaria, presso la stessa sede del GERSI appunto di Ispra. E, tra l'altro l'attività di carattere scientifico appunto dell'Unione Europea in vista della partecipazione Expo è un'attività che è iniziata già oltre un anno fa con l'istituzione di un Scientific Steering Committee appunto costituito proprio con l'obiettivo di predisporre un position paper sui temi di Expo. Questo Scientific Steering Committee è presieduto dall'ex commissario europeo all'agricoltura Franz Fischler ed è composto da un numero importante di scienziati che provengono dalle principali realtà universitarie europee ed è un comitato scientifico che soprattutto ha già prodotto appunto un position paper che è stato trasmesso alle autorità italiane come contributo appunto dell'Europa al dibattito in corso per la redazione della Carta di Milano, la Carta di Milano che appunto sarà appunto manifesto concreto e attuabile che rimarrà alla fine dell'Expo come anche impegno con degli obiettivi ben precisi da raggiungere da qui appunto ai prossimi anni. E, a tale riguardo il primo grande evento appunto che stiamo organizzando per l'Expo si terrà proprio l'8 maggio, quindi il giorno prima della festa dell'Europa. E sarà appunto un grande convegno internazionale al quale appunto parteciperà il commissario europeo all'educazione e alla cultura Tibor Navracsics, ma anche la vicepresidente del Parlamento europeo Merel McGuinness, con un panel di altissimo livello di relatori, perché per tutto il giorno appunto dibatteranno del ruolo della scienza appunto nell'ambito della nutrizione, la sicurezza nell'alimentazione a livello globale. Questo è il primo grande appuntamento, ma ripeto, è solo il primo di una lunga serie di eventi che poi potranno essere anche consultati appunto nei diversi siti social network dove la Commissione sì, appunto aggiornerà in tempo reale dell'attività su Expo. E poi chiaramente il 9 maggio sarà una grande giornata dove tutto l'Expo sarà dedicato all'Europa e con la partecipazione del Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz e della Vicepresidente Federica Mogherini ci sarà tutta una giornata dedicata appunto all'Europa con anche una sessione del dialogo dei cittadini, Citizen Dialogue, dove appunto i massimi livelli delle istituzioni europee si confronteranno con centinaia di giovani. Ci saranno appunto anche una parata, ci sarà un evento speciale dedicato alla civiltà del pane, insomma sarà tutta una giornata dedicata all'Europa che si concluderà alla sera con un concerto di Beethoven, della nuova sinfonia appunto presso l'Auditorium La Verdi di Milano. Mi sembra essere veramente iniziative lodevoli, sono solo le prime e sono sicura che ce ne saranno tante altre, perché immagino che ci siano, proprio perché c'è questa carta programmatica che, insomma, di cui si parlerà, che probabilmente altri eventi anche di natura tematica saranno organizzati nel corso di questo lungo semestre dedicato per l'appunto a temi così importanti come la nutrizione, soprattutto un'alimentazione sostenibile. Veniamo invece ad aspetti magari più pratici, anche per invogliare gli amici all'ascolto a partecipare all'Expo. Se ne parla un po' in giro, no? Se ne parla in Italia, se ne parla a Bruxelles, quindi siamo veramente curiosi di sapere se ci puoi già fornire delle informazioni sul padiglione europeo. Certamente, allora, il padiglione europeo è un padiglione diciamo di, dal punto di vista delle dimensioni, di medio piccola grandezza, che sarà composto di tre piani. Un primo piano, piano terra, diciamo, che sarà quello dedicato appunto alla cosiddetta visitor experience, cioè un'esperienza che il visitatore farà immergendosi in una realtà, diciamo una realtà virtuale, in quanto si è deciso di impostare, diciamo, il livello della comunicazione del padiglione utilizzando un tipo di comunicazione di carattere emotivo. I protagonisti del padiglione europeo, della parte quantomeno dedicata al grande pubblico, sono infatti due personaggi di fantasia, Alex e Silvia, che sono due, saranno i protagonisti di un cortometraggio animato, tra l'altro verrà presentato in anteprima dopodomani appunto a Milano, alla presenza delle autorità, un cortometraggio animato di 8 minuti nel quale sono racchiusi tutti i messaggi chiale di quello che è il valore dell'Europa e di come i valori che hanno costituito diciamo, il successo dell'integrazione europea sono anche quelli che consentiranno e potranno consentire all'Europa appunto di contribuire a risolvere appunto i grandi problemi dell'umanità legati all'alimentazione sostenibile e fruibile per tutti. E quindi di fatto il padiglione sarà un viaggio nella storia di Alex e Silvia, che sono un agricoltore e una scienziata, e da cui incontro appunto, non voglio svelare anticipatamente tutta la storia, se no non ci sarà più neanche la curiosità di partecipare, però da cui incontro appunto nascerà il futuro dell'Europa in un certo senso. Il tema centrale sarà il pane, il grano, in quanto il grano e il pane sono considerati come un alimento, un prodotto della terra, un alimento che costituiscono le radici veramente della cultura del continente europeo, e ci sarà all'interno del padiglione un momento finale, che è quello dove il visitatore proprio si immergerà dentro piccoli cinema quadridimensionali, quindi con effetti speciali che comportano anche sentire i profumi, essere spruzzati dall'acqua quando ci sono delle situazioni in cui appunto si verifica che ci sono un'inondazione, insomma sarà una cosa anche molto di grande attrazione e attrattività anche per i più piccoli, per i bambini, e soprattutto sarà il tipo di comunicazione che sarà rivolta a tutti, in quanto cortometraggio animato che conclude appunto l'esperienza del padiglione non sarà in nessuna lingua, semplicemente sarà accompagnato da una musica, ma sarà comprensibile quindi a chiunque, da un cittadino cinese piuttosto che da uno italiano o tedesco. Poi ci sarà appunto una parte tutta dedicata un po' agli approfondimenti un po' più specifici di che cosa fa l'Europa, che cosa fanno le singole direzioni generali. E poi avremo una bellissima terrazza dalla quale potremo mirare ogni giorno lo spettacolo dell'albero della vita, della Lake Arena, che come sapete costituisce un po' il cuore e il simbolo dell'Expo, dove ogni giorno si terranno spettacoli di suoni di luce. Quindi diciamo, venire a visitare il padiglione europeo avrà una serie di attrattive, come chiaramente vediamo tutti Toglimi solo una curiosità, perché ci parlavi prima dell'esperienza di Alex e Silvia, ma il video, o comunque l'esperienza così come l'avete immaginata, è parlata oppure invece è semplicemente mimata, quindi non è tradotta in alcuna lingua? Non è tradotta in alcuna lingua, è un tipo di cortometraggio animato che tra l'altro negli ultimi anni ha avuto esempi di grande successo anche a livello internazionale, dove semplicemente una storia dove i protagonisti non parlano ma si esprimono a gesti, si esprimono con una musica di sottofondo che accompagna la storia. Quindi è una comunicazione veramente universale che è basata sulle emozioni, sulle sensazioni, piuttosto che sulla parola. Però bene. È un tipo di comunicazione molto efficace, perché consente a chi assiste, a prescindere dal livello anche di alfabetizzazione, a livello culturale della lingua che parla, di uscire portandosi dentro un sentimento, speriamo noi, positivo, e comunque che induca poi anche avere la curiosità di andare a approfondire certi temi e certi messaggi. E quindi diciamo, è come tipo di approccio, è un approccio direi piuttosto innovativo per quanto riguarda le modalità di comunicazione delle istituzioni comunitarie. Speriamo che costituisca un bel precedente positivo che possa anche essere poi utilizzato in altre occasioni. Antonio, noi ce lo auguriamo, anche perché la ricchezza delle tematiche di cui stiamo parlando sicuramente non sarà fruibile così immediatamente in altri eventi, quindi sicuramente immagino che la volontà delle istituzioni europee di partecipare a tale progetto consista anche nel sensibilizzare in uno spazio ristretto e per un breve periodo di tempo il maggior numero di cittadini che travalichi anche i confini del continente europeo stesso. Certamente, sappiamo che sono attesi 20 milioni di visitatori. Questo sia un obiettivo sottostimato, quindi pensiamo che anche sulla base dei precedenti di altri Expo che si sono tenuti in Europa, parlo ad esempio di Siviglia negli anni 90, mi pare nel 92, il numero di visitatori fu molto più elevato di questo numero che diciamo, però insomma rimaniamo al 20 milioni di visitatori, dei quali si conta probabilmente almeno un 20% non europei. Noi pensiamo e speriamo che il messaggio dell'Europa a 360 gradi, quindi tutto quello che sta anche nella parte più di contenuto, di sostanza, di elaborazioni scientifiche, possa essere comunque portato e raggiunga il più alto numero di destinatari. E poi noi ovviamente durante 6 mesi contiamo di lavorare anche in stretta sinergia con i padiglioni dei paesi europei che partecipano all'Expo. Non dimentichiamoci che c'è un padiglione dell'Unione Europea, ma c'è un padiglione francese, tedesco. Ci sono 20 stati membri, da quello che so. Esattamente, sì, ci sono 20 paesi che hanno aderito. Padiglione, compresa l'Italia, però ci sono anche paesi che non hanno padiglione, che avranno, tipo Lussemburgo, che in sinergia e collaborazione con il padiglione europeo organizzeranno degli eventi dedicati appunto soprattutto all'attività business to business. Ma quindi diciamo che noi contiamo che l'Europa possa essere presente in modo esponenziale anche dalla sinergia positiva tra i padiglioni nazionali europei e il padiglione dell'Unione Europea. Quindi crediamo che questo possa creare veramente una massa critica tale da far passare forte e chiaro il messaggio di un'Europa viva e positiva, che ha soprattutto tante soluzioni da proporre al mondo per risolvere i grandi problemi appunto del prossimo millennio. Non a caso, e con questo posso anche chiudere, insomma, noi lavoriamo anche con l'Unione Europea insieme alle Nazioni Unite, che in Expo saranno presenti in modo diffuso e soprattutto sulla parte dei contenuti, per fare in modo che diciamo le best practices, le migliori pratiche europee possano diventare migliori pratiche fruibili anche da tutto il resto del mondo. E poi sarà, ricordiamo, un bellissimo viaggio per quanti non abbiano visitato magari alcuni degli stati membri presenti all'esposizione. Antonio, il tempo è tiranno e sai, il radio lo è particolarmente, veramente, guarda, proprio tirannissimo. Se gli ascoltatori di Radio Alma di Bruxellando volessero seguirvi, c'è un sito internet oppure insomma come seguirvi, ecco? Allora, noi siamo presenti sui social network principali, siamo presenti su Twitter, siamo presenti su Facebook. Adesso mi cogli un attimo in fallo perché non ho sotto mano l'indirizzo preciso, c'è un hashtag preciso, però penso che sia facilmente individuabile tramite una ricerca sotto EU Expo. Parliamo di Twitter? Perché ti posso aiutare. Come dici, scusa? Parliamo di Twitter, giusto, perché ti posso aiutare, ho le coordinate. Parliamo di Twitter e parliamo anche di Facebook. Tra l'altro, così come una notizia che può essere interessante, la pagina Facebook dell'Unione Europea attualmente è la più visitata, cioè con più like anche rispetto al pagina italiano, quindi siamo già al primo posto con circa 40.000 fans. E su Twitter, l'account Twitter, siamo secondi attualmente dietro a Padiglione Italia. Quindi diciamo le premesse sono eccellenti in considerazione della quantità e della qualità impressionante di contenuti che metteremo appunto in rete durante tutti i mesi d'Expo. Contiamo magari in un Expo A, magari chissà, chiudiamo al primo posto anche. Ma io ne sono sicura, sai, tra l'altro avete anche Instagram, Google Plus, LinkedIn, quindi veramente ce n'è di tutto di più. Tra l'altro ricordiamo magari un altro sito internet che è www.europa.eu/expo2015, che è per l'appunto il sito dell'Unione Europea dell'Esposizione Universale di Milano. Antonio, siamo in chiusura, come giustamente ricordavi anche tu. Quale ultimo indirizzo che hai dato? Sì. L'indirizzo dal quale potranno anche essere scaricati i contributi, eccetera, eccetera. Invitiamo tutti a visitare. Esatto, quindi Antonio, siamo in chiusura. C'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti aggiungere, oppure c'è un messaggio, oppure un saluto che vorresti indirizzare dai microfoni di Radio Alma e di Brussellando? Ma io, se mi consentite, vorrei indirizzare un saluto e un ringraziamento a tutti i colleghi che negli ultimi 2 anni all'interno della Commissione, ma ai colleghi anche del Parlamento Europeo, che hanno contribuito a costruire questa esperienza unica, che ripeto, incrociando le dita ci auguriamo che sia anche un'esperienza di successo, che comunque già a 2 giorni dall'inizio costituisce un valore molto importante, perché dal lavoro di tutti coloro che, rappresentando le singole direzioni generali, i gruppi di lavoro, ha concepito tutti gli strumenti di comunicazione a tutti i livelli, è un lavoro che dimostra veramente il valore aggiunto che ha l'Europa e le tante cose positive che ancora si possono portare ai cittadini europei e al resto del mondo. Quindi in un momento in cui diciamo, il messaggio sull'Europa spesso esce in modo negativo o distorto, io vorrei ringraziare tutti quelli che invece hanno creduto che le cose possano tornare a essere positive. Quindi saluto i colleghi e li ringrazio anticipatamente. Poi vedremo se fra 6 mesi ci possiamo risentire e tirare un bilancio di quello che sarà stato fatto. Guarda, volevo strapparti questa promessa, invece sei stato tu per primo a dirlo, quindi io sarò molto lieta magari la prossima volta di invitarti in studio, così che da farti magari vivere questa esperienza radiofonica in diretta. Antonio, noi ti auguriamo veramente un ottimo lavoro. Se ci sono eventi che vuoi promuovere anche attraverso il nostro sito, se ci sono delle cose che magari possono facilmente passare anche attraverso la nostra piccola radio, magari pensa anche a Brussellando e a Radio Alma. Contateci. Grazie, buon lavoro, a presto. Cari amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui, questa trasmissione di Brussellando volge al termine. Spero l'abbiate trovata interessante, spero stiate già annotando alcuni degli eventi di cui abbiamo parlato, di visitare i siti internet di cui pure abbiamo abbondantemente parlato. C'è una ricchezza anche di social media, di attività che potranno anche essere seguite praticamente dal vivo. Ringrazio tutti voi e per quanti non possano ascoltare la trasmissione, vi ricordo il nostro podcast che sarà disponibile come sempre tra qualche giorno. Saluto Dani M alla regia, ci tengo a ringraziare anche lui per la preziosa collaborazione e vi do appuntamento a martedì prossimo per una nuova puntata di Brussellando. Maridì vi saluta, vi auguro un ottimo weekend e spero soprattutto che abbiate trascorso nel migliore dei modi questo 1° maggio. A presto!